Cosa facciamo? Dire una roba, dai. Ma non questo, questo non mi piace. Questo sì. Bene. Chiedo asilo. Che faccia è, Drago? Lunedì, dai, cos'è che hai? Hai incontrato ancora il camion della spazzatura? Ma no, sì, quello sì, però ormai non fa più notizie, quello non lo dico nemmeno. Non ha mai fatto notizie. Beh, certo, le notizie sono altre. È capitato anche a me l'altra sera. Oh, sono contento. Anzi, mattina, perché erano tipo le 5 del mattino, di trovare un camion della spazzatura in una strada impossibile, piena di cassonetti da caricare e da scaricare. Allora cosa faccio? Vabbè, non ce la faccio, faccio retromarcia. No, retromarcia, mai fare retromarcia. Faccio retromarcia e arrivo in un'altra strada dove c'è un altro camion della spazzatura. Sì, perché i quartieri sono tutti organizzati in modo da bloccare tutte le strade. Comunque non fa notizia. Sì, vabbè, non ha mai fatto notizia, le notizie sono altre. Parliamo di corruzione, perché ormai notizie escono corruzione. Fuori solo dal campo. Siamo all'asilo, corruzione. Drago, cosa c'entra la corruzione? La corruzione c'entra, c'entra sì. Siamo in Italia, la corruzione c'entra. Macedonia e Ghana. Cosa, Tito, ma adesso cosa c'è? Macedonia e Ghana sono i due paesi che dividono con l'Italia il 69esimo posto di paese meno corrotto. È vero, pensa un po', la Macedonia almeno è vicina geograficamente, abbastanza. Insomma, col Ghana invece abbiamo solo in comune qualche immigrato irregolare. Una volta al ristorante mi hanno detto un cameriere: a livello di frutta abbiamo la Macedonia. Però io volevo parlare della corruzione spicciola, quella che avviene meschinamente tutti i giorni. Per esempio, parlando di bambini e di asilo, il caso recente di pediatri che ricevevano regali di lusso dalla Sandoz per prescrivere ai bambini in cura degli ormoni e delle medicine assolutamente inutili. Quindi 70 pediatri sono sotto inchiesta e adesso aspettiamo. Vabbè, che vengano. Ma ai nostri tempi, quando noi eravamo bambini, succedeva molto di peggio. Ma cosa? Non mi ha mai dato gli ormoni, la Sandoz. A un sacco di bambini hanno tolto le tonsille senza motivo negli anni 70. Vabbè, ma mica... Solo con la scusa che poi ti davano il gelato. È vero, però erano magari ricerche scientifiche che all'epoca andavano di moda. Non c'era la corruzione. Dai, vabbè, adesso si è saputo, i medici sono stati sospesi, si vedrà dopo il processo. Non ho trovato invece tracce di imputazione per la Sandoz, se la sono presa solo con i medici, non so perché. Lo sai, sono svizzeri. E quindi? Sono svizzeri, è gente... È gente cosa? Wunderwaffe. Ah, ein Stadtmensch. Sì, glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind. Wunderwaffe. Aber das stimmt nicht. Wir haben das frisch erfunden. Da ist Minze drin, in einer knackigen Füllung. Ein zarter Schoki von Wunderwaffe. Wunderwaffe. Aber Vorsicht. Wunderwaffe. Ist cool, man. Aber Vorsicht. Ist cool, man. Wunderwaffe. Wunderwaffe. Wunderwaffe. Wunderwaffe. Wunderwaffe. Wunderwaffe. Wunderwaffe. E ora, bambini, ricreazione! Uè, Gildo! Allora, hai visto la notizia o no? Notizia! No, del sondaggio! Il sondaggio! Sondaggio su Facebook, no? Chiedo asilo. Ha fatto un sondaggio chiedendo agli amici di votare il personaggio preferito di Chiedo Asilo, no? Il personaggio preferito? Sì, e sai chi è stato il vincitore? Chi è stato? Tu! Io? Tu! Io? Gildo! E quindi? E quindi sei il personaggio più amato, no? Tutti Gildo, Gildo forever! Gildo! Sì, capito, però... Sì, beh, non è che devi montarti la testa, nel senso che... Sono io! Sì, sei tu, salvo... E di personaggi, diciamo, di contorno, no? Contorno! Di contorno, perché adesso non è che tu puoi... Cioè, sei il più votato dei personaggi di contorno, perché... Contorno vuol dire che io sono il personaggio principale, no? Il bambino Alberto è il personaggio principale, quindi io non partecipo al sondaggio perché sono, come dire, fuori concorso, no? Beh, ma ci sono pure io dentro al sondaggio! Joris, sì, tu ci sei? C'è Gildo che è il più votato. Tu sei molto più indietro, sei più indietro di Gildo, no? Sei più indietro di Gildo! In questa classifica dei personaggi di contorno. Contorno? Come più indietro? Tu hai sempre le preferenze, anche tu, Alberto! No, ma io sono fuori concorso, io sono il personaggio, io sono la star di Chiedo Asilo, sono il bambino fenomeno, no? Bambino Alberto, quindi non partecipo anche per vostra, come dire, per non umiliarvi, no? Per non avere... E se c'è il bambino Alberto, c'è la votazione, è unanime, no? È quasi unanime! E poi quegli altri che votano al contrario, forse c'è. Sì, però Gildo primo, io secondo e te non si sa, Madonna, allora non hai capito. Forse questo è il fatto, il problema è che tu sia in fondo classifica, è dato da questo fatto che da comprensione. Io sono fuori concorso! E fuori concorso? Io sono la star. Cioè, ho capito. Quindi noi non parliamo di me. Io sono over, no? Voi due. Gildo, tu sei il personaggio più votato. Gildo, e Joris, il secondo più votato, Sei il secondo! Ho vinto! Siamo medaglia d'argento! Ho vinto! Medaglia di legno, si dice, perché quella d'oro è mia e le altre non valgono. Cioè, Gildo primo! Gildo primo dei secondi, come dire, no? E che ho vinto! E che vinto, è stato secondo. Gildo è arrivato primo e... Che non hai vinto niente. Che ho vinto! Che ho vinto, non hai vinto niente, no? È una questione di prestigio. Tu puoi dire, beh, testa alta, io sono Gildo. E tutti dicono che tu non esisti. Eppure sei allora più votato. Allora sono io il primo. No, tutti dicono, ma se l'hanno votato vuol dire che quelli che dicono che non esiste, sappiamo bene chi sono, sono gli unici a pensarlo. Perché gli altri hanno capito che tu esisti in carne ed ossa. Qui adesso devo andare. E devo andare. Allora, comunque, complimenti, Complimenti. Per essere il primo dei secondi. Tu. Grazie. Tu sei il secondo dei secondi. Secondo. Sì, perché il primo sono io, no? Ma quante polemiche una settimana fa per l'aggettivo inglese usato dal ministro Fornero. Adesso. Cheesy. Ma come cheesy? Ha detto che i giovani d'oggi sono troppo cheesy. Vuol dire dozzinali, scadenti, privi di gusto. Guarda che veramente, ha detto choosy, che vuol dire selettivi, schizzinosi, un po' così. Ma io per tutto il tempo ho pensato che avesse detto cheesy e quindi che avesse ragione anche. No? Cheesy. This is a song about vegetables. They keep you regular. They're real good for you. Nell'aria si insinua un profumino. Mi stuzzica il naso, ma cos'è? Sa un po' di letame, mi viene una fame immensa, aspetta, non me. Eccomi in fila ad aspettare. Si fanno scommesse sul menù. Chi dice fagioli, chi dice banane, ciliegie, biscotti, coniglio di cane. Ma il cuoco in vacanza, c'è una sola pietanza. Finocchi cotti, finocchi cotti, finocchi cotti per me. Per me, per te e per tutti voi, perché i finocchi cotti sono un fatto collettivo. Chiedo asilo! E ora è il momento di un ospite incredibile, siamo davvero onorati di averlo qui con noi. È in assoluto uno dei grandi protagonisti della musica rock del XX secolo. Ecco a voi Andy Partridge! Partridge... Nessun applauso, il gelo, io te l'avevo detto. Hai ragione tu. Anche se davvero avessimo qui con noi, e non è vero, Andy Partridge, non fregherebbe proprio niente a nessuno. Anzi, ci caccerebbero dall'asilo, perché affosseremo gli ascolti. Ma no, ma cioè tu dici che c'è gente che ascolta me te e che cambierebbe invece non appena annunciassimo l'arrivo di un ospite importantissimo come, che ne so, ed ecco a voi Roland Orzabal. No. Ci sono altri 6-700 che hanno già girato sulla concorrenza radio. Scusa, ma sarebbero ospiti da leccarsi i baffi, Andy Partridge degli XTC, Roland Orzabal dei Tears for Fears. No, ma sarebbero ospiti che non potrebbe ospitare nemmeno Gad Lerner. Ed ecco a voi Randy Newman. Siamo a posto. Nessuno. Non funziona così nello showbiz di oggi. Oggi o hai ospiti icona o niente. Ospiti icona? Sì, ospiti che lo spettatore medio riconosce subito, appena li vede o appena ne sente il nome, tipo, non so. Ed ecco a voi Belen. Capito? Ok, e basta dire Belen senza nemmeno il cognome. Ma no, certo, meno cognomi e meglio è. Ma come meno cognomi? È più semplice, no? Ma no, ma come? Comunicazione elementare, di primo livello. Sì. Se il tuo ospite ha solo il nome. È molto più facile. Come all'asilo. Ed ecco a voi Mina. Mina, dai, come ospite la vorrebbero tanti. Cosa dici? Ed è già bambino Alberto, non va bene. Ed ecco a voi Alberto. Alberto, vabbè. Comunque gli ospiti devono essere icone, Drago. Devono essere autoesplicativi. Se inviti Di Pietro e Casini è come se invitassi il gatto Silvestro e Bracco Balzo. Come, perché? Sì. Bracco Balzo. Adesso non so chi è chi. Comunque sono due figure già, come dire, riconoscibili di per se stesse, no? Sono come dei santini, sono come delle... Quindi vabbè, metti l'icona di Di Pietro e siamo tutti contenti. Certo, l'icona di Di Pietro, santo, martire. Mancano 53 giorni alla fine del mondo.